si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24. Vi ricordo subito i nostri contatti se volete interagire in tempo reale con noi, l'account Twitter del programma @sipuofare24, il mio @AleMaurizzi. Poi c'è sempre la possibilità di inviare degli sms al 349-238-6666. Cominciamo adesso a leggere le prime pagine dei giornali, naturalmente dense, densissime di biografie, quelle dei nuovi ministri, 16, la metà donne, un governo, dicono i commenti, daremo un'occhiata anche a questi, un governo a immagine e somiglianza di Renzi, con tante novità e poche personalità, si dice però, compreso forse anche il neo ministro dell'economia che era il più atteso. Ma andiamo ad iniziare. And now the good news. Andiamo ad iniziare come ogni giorno con una buona notizia. Questa volta è legata alla settimana della moda, una iniziativa del gruppo Zegna di cui forse avrete sentito parlare in questi giorni. Una buona notizia perché una borsa di studio con lauti finanziamenti, e bisogna dare atto ai gruppi privati quando lo fanno, e anche con questa entità, 1 milione di euro l'anno per 25 anni, quindi una base di 25 milioni di euro messa a disposizione dal gruppo Zegna per chi? Per i giovani italiani che vanno a studiare sia all'estero, stanno cercando un master o un dottorato, ma che si impegnano al termine di questo a rientrare in Italia, quindi borse di studio per garantire il rientro dei cervelli, cosiddetti cervelli italiani all'estero. Il punto di partenza è che si ammette che fare un'esperienza all'estero è una cosa normale, normalissima, anzi fa bene a questi giovani ma anche all'Italia, quando poi i giovani però rientrano avendo fatto delle esperienze formative importanti, e quindi questo è proprio l'impegno. La borsa di studio te la danno, 10 persone all'anno si divideranno 1 milione di euro all'anno, con l'impegno però poi dopo gli studi all'estero di tornare in Italia. Questa è una buona notizia. Ma dicevamo della nascita del governo Renzi, ecco il Renzi 1, scrivono tutti i giornali, il Corriere, ecco la squadra, mi gioco la faccia, e molti mettono in evidenza questa frase che ha detto Renzi: donne la metà dei ministri, Napolitano il lungo colloquio, nessun braccio di ferro, così ha detto Napolitano subito dopo Renzi, anche se in retroscena dicono che la lista dei ministri che era entrata a colloquio con Napolitano non è esattamente quella che è uscita. Dunque un braccio di ferro almeno sul ministro della giustizia, che doveva essere, poteva essere Gratteri e invece è Orlando, ci è stato. Leggiamo un primo commento, va, che ci sta oggi, non facciamo quasi mai, però per inquadrare i vari punti di vista. Antonio Polito: esuberante debolezza, è finalmente ricco di donne raggiungendo lo standard dei paesi nordici ed è affollato di gente nuova, anche se in qualche caso sembra di seconda fila. Allo stesso tempo il premier ha dovuto cedere su due punti simbolici: il primo è Alfano, resta al governo che si voleva delettizzare seppure perdendo i galloni di vice ministro, vice premier non c'è più. Il secondo punto di debolezza è il tesoro, dove non va un uomo di Renzi ma un uomo delle istituzioni finanziarie, quel Piercarlo Padoan, la cui carriera all'estero è stata considerata indispensabile, come fu con Grilli e Saccomanni. Si può dunque dire che la vera innovazione del Renzi primo è Renzi stesso, il più giovane premier, per giunta extraparlamentare dall'Unità d'Italia ad oggi. È lui la forza gravitazionale su cui si basa il governo. Sarà da sperimentare, dice Polito, soprattutto la troica economica, che oltre a Padoan vede un esponente di Confindustria allo sviluppo, Federica Guidi, e uno delle COP al lavoro, Poletti, che dovrebbe, da questa troica dovrebbe nascere la riforma chiave per aprire il cuore dei burocrati di Bruxelles. Ed è una vera e propria scommessa la scelta di cambiare nel piano della crisi dei Marò il ministro degli esteri, sostituendo una delle donne italiane più note al mondo con una delle migliori parlamentari, Federica Mogherini. Il parto è stato tra i più laboriosi, scrive ancora Politolo. Si è capito da quanto tempo il premier era passato nello studio del capo dello Stato e lo si è capito dai nomi che non hanno resistito al vaglio, come quello di un procuratore della Repubblica come Gratteri alla giustizia. Andiamo a vedere proprio tra gli esclusi sul Corriere l'ira di Emma Bonino: mi hanno fatta fuori senza una telefonata. Qua l'articolo riferisce della telefonata che invece le ha fatto il Corriere subito dopo. Perché mi hanno fatta fuori, dice la Bonino, io davvero non lo so, nessuno mi ha avvertita, non mi ha chiamato nessuno, l'ho appreso guardando la TV, io non sapevo assolutamente nulla. Questo, diciamo, riguarda le modalità con cui la Bonino, che era in corsa per una riconferma, non è stata riconfermata. Cosa ne pensa della Mogherini? Lo dirò soltanto domani pomeriggio in Largo Argentina, dove terrò una conferenza stampa per salutare tutti quelli che mi hanno sostenuta sin qua. Poi scompare anche la Kyenge, Cécile Kyenge, lei e il suo ministero, il ministero dell'integrazione, non c'è più. E poi c'è un articolo a proposito di Gratteri, è stato preferito a lui l'ex ministro dell'ambiente Andrea Orlando. Il Corriere inizia chiedendosi quale sia il punto di contatto politico, culturale tra Gratteri e Renzi. C'è un indizio che risale al 4 febbraio scorso, all'indomani dell'evasione del boss Antonio Cutri, con assalto mortale al furgone che lo portava dal carcere all'aula di giustizia. Il segretario del PD scrisse con un tweet: mi ha colpito l'analisi del procuratore Gratteri, con la videoconferenza avremmo evitato l'assalto e anche morti ed evasione. Ma il Quirinale non ha apprezzato, probabilmente perché si scrive: non è piaciuta l'idea di insediare un ministro, come ministro un magistrato in servizio in un esecutivo politico che voglia avere prospettive riformatrici e di lunga durata. Come avrebbero reagito inoltre i berlusconiani e gli avvocati? E questo è il motivo per cui il super pubblico ministero Gratteri, che va avanti a colpi di indagine, di arresti nell''ndrangheta e ogni tanto anche di qualche conferenza e di qualche libro, non è diventato ministro. Andiamo avanti sugli altri giornali. Un po' di critiche ci sono sui giornali del centrodestra, le anticipiamo subito, magari le vediamo più avanti. È un Letta bis, scrive Libero: delusione Renzi su 16 ministri, ben 9 sono riciclati dal governo uscente. Padoan è peggio di Saccomanni, il lavoro finisce in mano alle coop e se il cambiamento è la Boschi, puntini, puntini. Ma vediamo per esempio sul Sole 24 Ore, dove c'è un dossier che riguarda tutti i ministeri, tutti i dossier aperti, strategici e quelli, diciamo, i dossier di immediata attuazione, cioè i decreti in scadenza, le norme che vengono attese per esempio dalle imprese, ma non solo, anche dai semplici cittadini. Quindi le sfide da cui partire, quelle immediate e quelle strategiche per tutti e 16 i ministri. Le riporto oggi il Sole 24 Ore, che poi interessante a proposito del ministro dell'economia, neo ministro dell'economia Padoan, è proprio stato il Sole 24 Ore a dare la notizia. Infatti scrive Rossella Bocciarelli: sì, sono io, sono in partenza tra 2 ore perché devo andare dal presidente a 00:15 di una lunghissima interminabile giornata tra Sydney e Roma. Piercarlo Padoan conferma al Sole 24 Ore di essere stato chiamato come ministro dell'economia e secondo Rossella Bocciarelli, per capire cosa ha in testa Padoan, bisogna andare a leggere il capitolo sull'Italia dell'ultimo rapporto dell'OCSE, stilato personalmente proprio dal neo ministro dell'economia, che dice che c'è l'esigenza di agire con decisione sul versante del costo del lavoro, che va alleggerito mediante aggiustamenti salariali e tagli del cuneo fiscale, da compensare con cambiamenti della composizione delle imposte in direzione della tassazione sui consumi, cioè più tasse sui consumi, quindi l'IVA, meno tasse sul lavoro e anche aggiustamenti salariali. Nella ricetta di policy dell'ormai ex economista dell'OCSE ci sono anche gli incentivi per le imprese che scelgono di investire nei nuovi mercati, nelle nuove tecnologie, per innalzare la produttività del sistema. I giornalisti gli hanno chiesto poi subito se aveva già in testa una prima iniziativa da ministro. Una due diligence, dice Padoan. Tagliare la spesa pubblica che non serve è del resto una priorità se si vuole creare spazio per una riduzione del carico fiscale. Ma del resto la due diligence sulla spending review è già prevista, già in cantiere, quella di Cottarelli. I risultati dovrebbero arrivare abbastanza presto, e da lì Renzi l'ha già fatto capire, si cercheranno di tirar fuori le risorse, soprattutto da lì le risorse per abbassare il benedetto cuneo fiscale, cioè le tasse sul lavoro, quindi per far entrare qualcosa in più nelle tasche dei lavoratori, soprattutto quelli con stipendi non stellari, e anche per far risparmiare qualche cosa alle imprese. Quindi vedremo dal lavoro di Cottarelli sulla spending review quanti risparmi ci saranno. L'altro capitolo era quello della tassazione delle rendite finanziarie, indicato più volte da Renzi, cioè tassare le rendite finanziarie per tirar fuori dei soldi da dare a chi lavora anziché a chi investe in borsa o in altre cose. Però abbiamo già capito nel primo vertice di maggioranza di 2 giorni fa che Scelta Civica e i centristi su questo non sono d'accordo. A proposito delle insidie che attendono il governo Letta, le riporta il Corriere della Sera. Cosa faranno i Popolari per l'Italia e i Civatiani? Cioè i 12 senatori, i 9 ex Montiani che stanno con Mario Mauro, ex ministro della difesa, che ha perso il posto da ministro, voteranno in Senato a favore del governo Renzi? E i Civatiani, nonostante la nomina del sindaco antimafia Maria Carmela Lanzetta, ministro per gli affari regionali, una civatiana, staranno, sosterranno Renzi oppure no? C'è un'intervista di Civati sul Corriere, che però vi lasciamo in sospeso, ve la leggiamo dopo la pausa, la rassegna stampa europea, il giornale radio, insomma tra una mezz'oretta, e torniamo di nuovo con le prime pagine del giornale, poi inizia il programma più tardi. La mia ricetta per salvare l'Italia è quella di assunzioni di persone non occupate, non si pagano i contributi per 3 anni. La possibilità di assumere le persone anche a tempo determinato per i successivi 3 anni, perché se serve la persona si assume, altrimenti non si assume. E l'Inps ed Equitalia e tutti gli altri che possono vantare dei crediti verso privati o verso aziende, di accettare la rotazione anche più lunga, perché è meglio prenderli che non prenderli e non affossare le aziende. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, cominciate a prenotare i vostri interventi in diretta. Naturalmente oggi di cos'altro possiamo farvi parlare se non del governo Renzi, del Renzi primo, e quindi insomma chiamateci per commentare quello che avete capito di questo governo, le biografie dei ministri, se vi piacciono, se non vi piacciono. 800 24 00 24, vi ricordo anche che se volete interagire in tempo reale con noi, l'account Twitter del programma è @ si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Andiamo di nuovo sui giornali a vedere come si occupano della vicenda. Poi naturalmente più avanti con i nostri approfondimenti, le nostre buone notizie, andremo anche a Sanremo con Marta Cagnola, ma questo solo più avanti. Cominciamo a occuparci dei singoli casi. Abbiamo letto già sul Sole 24 Ore il resoconto di Rossella Bocciarelli a proposito del neo ministro dell'economia Padoan, che è stato raggiunto mentre era al G20 di Sydney e ha dato le prime indicazioni su quello che sarà il suo lavoro. Taglierò il cuneo fiscale, quindi meno tasse sul lavoro, e le risorse dovranno venire soprattutto dalla revisione della spending review, cioè dal taglio della spesa pubblica. Altri casi interessanti, saltiamo dalle stelle, non alle stalle, ma insomma dall'alto al basso. Un altro ministro è la Madia, Marianna Madia. Non me l'aspettavo, scrive Repubblica, stavo guardando Peppa Pig. E le chiedono, è contenta di essere diventata ministro? Molto, anche se non ho avuto ancora il tempo di rendermene conto, non ho seguito i commenti politici. Ho guardato in TV Peppa Pig perché me l'ha chiesto mio figlio. Lei ha un figlio piccolo e stava guardando Peppa Pig, non c'è niente di male. Certo che diventare ministro così è una cosa straordinaria, cioè lei era lì a casa col figlio a guardare la televisione, la chiamano, sei diventata ministro. E poi infatti le chiedono, ma lei immaginava di andare alla pubblica amministrazione? No, non me l'aspettavo, non pensavo tutto sarebbe avvenuto in questo modo, avevo capito che nell'aria c'era qualcosa che mi riguardava, chissà perché, questo aggiungo io, sapendo poi come è fatto Renzi, puntini puntini, però Matteo mi ha detto all'ultimo minuto che si trattava di questo ministero. Quindi, ma insomma, lei che tipo di riforma ha in mente della pubblica amministrazione per snellire, un po' per semplificare, è uno dei grossi problemi, altro che articolo 18 mi verrebbe da dire, dell'Italia, anche dal punto di vista delle attività economiche, delle imprese, di attirare gli investimenti dall'estero, ma anche per la semplice vita del cittadino di ogni giorno, lo sappiamo quanto è terribilmente complicato spesso avere a che fare con la pubblica amministrazione. E lei risponde, ci deve essere una rotazione negli incarichi e quindi una mobilità, ma le riforme vanno fatte con cura e cautela. Ecco, da qua si capisce che è già diventata ministro, parla di cura e cautela, cioè andiamoci calmi, vedremo cosa faremo. A proposito di questo, è interessante anche come è cambiato anche lo stesso Renzi, cioè avete notato, in questi giorni è stato in silenzio, ieri durante la conferenza stampa aveva la voce affaticata, evidentemente dal lavoro che ha fatto in questi giorni, questo non è ironico che sto dicendo, è vero, probabilmente ore, nottate di discussioni con Alfano, con Napolitano, con chiunque, però già è cambiato Renzi, era baldanzoso, faceva battute tutti i momenti, adesso le battute sono diminuite, l'aria è già un pochino più smunta, insomma, diceva Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha, ma ho la sensazione che, a parte che per lui e per Berlusconi, per tutti gli altri, vale esattamente il contrario. Abbiamo visto un Renzi già un po' affaticato. Abbiamo detto prima a proposito delle insidie che aspettano il governo Renzi alla votazione in Senato, gli ex Montiani di Mauro che ha perso il posto di ministro della difesa e i Civatiani che insomma sono critici, potrebbero far mancare i loro numeri, e siccome sulla carta Renzi può disporre di 176 voti più dei 161 che sono necessari, ma capite che la differenza è 15, non è altissima, chissà. Andiamo a vedere l'intervista di Civati che gli fa Repubblica. Voterà la fiducia? Risposta: domani c'è l'assemblea del nostro popolo, decideremo insieme a quelli che si riconoscono in noi. Ma insomma, voterà o no questa fiducia, onorevole? A questo punto la fiducia, dice Civati, è un fatto tecnico perché sono contrario a questo governo. Quindi lei si sente già all'opposizione? Beh sì, d'altra parte ho già votato contro in direzione, ora dobbiamo valutare cosa fare in aula, perché non votando la fiducia sarebbe poi difficile restare nel partito. A questo punto si tratta soprattutto di un voto sul PD, dobbiamo valutare se rompere con il nostro partito e ci dispiacerebbe. Ah, ma allora lei immagina un nuovo centrosinistra? Se al governo torniamo a dialogare con Alfano e con Verdini, anche con Berlusconi, nella società dobbiamo farlo guardando alla ricostruzione del centro-sinistra, lo spazio a sinistra del PD si allarga pericolosamente e lei è in bilico. E a me, che mi sento di sinistra, dispiace. Se questo sentimento riusciamo a portarlo in Parlamento, non lo so. È difficile con il PD schierato verso destra. Ci proverò. Cioè, Civati sta dicendo che proverà a spostare il PD e anche il governo un pochino più a sinistra. Se non ci riuscirà, fonderà un nuovo partito. Scommettete su quello che accadrà. Io scommetto che non riuscirà a spostare il governo a sinistra, ma non fonderà neanche un altro partito, perché queste sono cose lunghe, poi ci vogliono delle elezioni, però se le elezioni si allontanano, forse si allontana anche questo momento, ma queste sono solo considerazioni personali. Allora, andiamo a conoscere qualche altro neo ministro. Per esempio, intanto la stampa ci ricorda come Matteo Renzi ha formato il governo con il manuale Cencelli, ma soprattutto c'è quello del famoso Massimiliano Cencelli, cioè che diceva proprio nero su bianco come andavano distribuiti i ministri all'epoca della DC e del pentapartito per soddisfare tutte le varie correnti. Ma qui Renzi ha dovuto avere a che fare soprattutto con le cinque correnti del Partito Democratico. Allora andiamo a vedere, soddisfatti tutti, l'area Dem, la corrente Franceschini-Fassino, che ha avuto come ministri la Pinotti alla difesa e la Mogherini Pellegrini agli esteri. I dalemiani gongolano per la nomina principale, cioè quella di Padoan all'economia, perché Padoan, pur essendo un tecnico, è stato consulente o comunque viene dato come vicino a Massimo D'Alema. Poi ci sono i giovani turchi, non dimentichiamoli, salgono di grado perché Andrea Orlando, giovane turco, passa dall'ambiente alla giustizia. A proposito di Orlando, dovrà studiare un po'. L'ultima volta che l'avevamo intervistato come ministro dell'ambiente aveva detto: adesso quest'anno il mio fioretto è che mi impegno a studiare, a capire meglio le cose, e si parlava naturalmente del consumo di suolo, delle frane, delle alluvioni. E lui, che insomma era un neofita di questi argomenti, dice: studierò, adesso dovrà studiare la giustizia. Cambia argomento, ma non cambia la sostanza, cioè quello dello studio. I renziani, finiamo con le correnti del PD dentro il governo Renzi, sono soddisfatti anche loro ovviamente. C'è la Boschi e c'è Del Rio che sarà l'uomo forte, e poi ci sono i civatiani. Già abbiamo appena letto intervista interlocutoria di Civati, però c'è Maria Carmela Lanzetta, che è una civatiana, e quindi soddisfatta anche la corrente dei civatiani. Chi è Maria Carmela Lanzetta? Andiamo a vedere la sua biografia. Lei è sotto scorta, la sua farmacia è stata bruciata, la sua auto crivellata dai colpi della lupara. Maria Carmela Lanzetta ha tenuto duro per anni fino a diventare un'icona della lotta contro la mafia. Eletta sindaco nel 2006 a Monasterace, un comune di 3.500 abitanti in provincia di Reggio Calabria, ha deciso poi di gettare la spugna a luglio dell'anno scorso, cioè si è dimessa perché era stufa evidentemente di fare la paladina dell'antimafia. Però lei aveva detto: non sono state le cosche a convincermi a lasciare, ma è stata la stanchezza e la delusione per la politica da parte di chi dovrebbe e potrebbe fare molto e pensa solo alle strategie anziché ai problemi della gente, aveva detto quando aveva annunciato le sue dimissioni. Chissà cosa potrà fare per rilanciare questo afflato politico da ministro degli affari regionali, un ministero abbastanza tecnico, mi verrebbe da dire. Poi può darsi che mi sbagli. Ancora ministro dell'istruzione, abbiamo lasciato Maria Chiara Carrozza, proveniente dalla scuola Sant'Anna di Pisa, un'eccellenza sicuramente italiana, per trovare Stefania Giannini, 53 anni, in quota Scelta Civica, nata a Lucca, proveniente dal mondo universitario, scrive il Messaggero, proprio come il ministro uscente Maria Chiara Carrozza. Dal 2004 fino ad aprile 2013 è stata rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, docente ordinario di glottologia e linguistica dal 99. Stefania Giannini nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi a livello nazionale e internazionale. Nel 2010 è diventata presidente della Società Italiana di Glottologia. E vabbè. Poi tra le new entry c'è anche Gianluca Galletti, bolognese doc, scrive il Messaggero, l'economista emiliano, per affrontare l'emergenza rifiuti. È un cattolico che non dispiace anche ai laici. Poi c'è per esempio Dario Franceschini, che passa dai rapporti col Parlamento alla cultura. Il Franceschini, il politico che scrive romanzi. Su Franceschini non c'è da dire molto perché lo conoscono tutti, insomma. Poi c'è Poletti, leggiamo ancora qualcosa di qualche neo ministro. Poi naturalmente aspettiamo i vostri commenti all'800 24 0024. Poletti il cooperatore, per me il lavoro è collaborazione. Anche lui svela un retroscena, cioè che è diventato ministro nel giro di poche ore dopo aver parlato per 5 minuti con Renzi e senza aspettarselo. Devo dire che insomma forse si fa così perché il governo si forma in poche ore e quindi non c'è tempo di fare lunghe discussioni. Però è un po' sorprendente che uno diventi ministro senza avere concordato per esempio una linea politica con il Presidente del Consiglio. Quello che è accaduto per esempio a Poletti, che dice: con Renzi ci siamo visti ieri sera, questo ha detto ieri, abbiamo chiacchierato un po', mi ha chiesto se ero disponibile ad accettare l'incarico, poi oggi sono rimasto ad attendere le notizie, e ha scoperto anche lui dalla televisione che era diventato ministro. Avete discusso delle cose da fare? No, guardi, in questo momento non posso parlare, cioè bisogna fare il giuramento, posso solo dire che le mie idee in tema di lavoro e occupazione sono note, da sempre opero nella direzione del protagonismo sociale, della partecipazione attiva dei cittadini, del senso di una responsabilità comune. Ma insomma, come gli domandano, forse non c'era neanche il tempo per approfondire a cena con Renzi. No, guardi, non era a cena, ma ha ragione, non era facile entrare nel merito, c'erano un sacco di cose da fare. E vabbè, insomma, quindi anche lui conferma questo fatto, che è diventato ministro nel giro di pochi minuti, senza approfondire molto la faccenda. Poletti, però, il cooperatore, un po' il modello tedesco potrebbe essere questo ministro del lavoro, se vogliamo dargli un'etichetta. Poi c'è anche la prima donna all'industria, una berlusconiana per snellire la burocrazia. Trattasi di Federica Guidi, 45 anni, modenese, figlia di Guidalberto, cresciuta in Confindustria, dove è stata anche presidente dei giovani industriali. Si segnala che il padre, Guidalberto, appunto due sere fa forse era ad Arcore a parlare con Berlusconi. Questo non vuol dire nulla, vuol dire solo che questa comunque è una cartella, una tesserina che non dispiace sicuramente a Confindustria per il passato della Guidi in Confindustria, ma anche a Berlusconi, che l'aveva contattata per fargli fare politica vicino a lui. 800 24 00 24, noi tra poco ripartiamo con la prima richiesta al governo Renzi, viene da un sindaco che vuole assumere i disoccupati. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Tu sei buono e ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai. Tu sei ricco e ti tirano le pietre, non sei ricco e ti tirano le pietre. Al mondo non c'è mai qualcosa che gli va, e pietre prenderai senza pietà, e così sarà finché vivrai, sarà così. Siamo partiti così, con pietre, non solo perché è stata suonata a Sanremo nel 1967 e quindi era un doveroso richiamo al Festival della Canzone Italiana, ma anche perché è il lamento dei sindaci dei comuni virtuosi, che dicono sostanzialmente quello che diceva la canzone di Antoine, cioè qualunque cosa fai ti tirano le pietre. Anche se sei un comune virtuoso, il patto di stabilità non ti consente di investire, di spendere, di fare per la collettività, per esempio di far lavorare i disoccupati. È la prima richiesta al governo Renzi, se vogliamo metterla così, e arriva da un sindaco, Riccardo Sumski, sindaco di Santa Maria di Pieve, in provincia di Piave, in provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Santa Lucia di Piave. Santa Lucia di Piave, scusi. Mi hanno scritto male in redazione. Capita. Allora, sindaco, lei questa cosa la dice da un po', l'ha detta ancora prima che nascesse il governo Renzi. Io ho voluto collegarla così alla nascita del governo Renzi, giurerà oggi. Si era detto che una delle cose su cui il neo ministro dell'economia avrebbe potuto provare a intervenire a Bruxelles era proprio quello, cioè in qualche modo allentare il patto di stabilità. Però sappiamo che questa è una partita complicatissima che riguarda istituzioni sovranazionali, l'Europa, l'euro, non vogliamo aprire questo dibattito, ma restiamo in Italia. Voi che cosa chiedete esattamente al governo? Una cosa molto semplice chiediamo: ci sono i voucher, quindi non inventiamo niente, è uno strumento di lavoro che permette di pagare in regola delle persone che non abbiano occupazione. Solo che non possiamo utilizzarli direttamente come comune, per cui bisogna inventarsi di quelle strade con convenzioni con associazioni, mandarli a lavorare per altri. Invece sarebbe semplice permettere al comune che ha i conti in regola, sottolineo, come il nostro e come tantissimi altri, di poter assumerli direttamente. Chiaramente è un lavoro temporaneo, ma di fronte alla pletora in aumento di gente senza lavoro e disperata, sottolineo io che sono medico, anche disperata dal punto di vista psicologico, è un aiuto, è una risposta immediata. potrò mettere in campo tantissimi soldi. Io ho fatto una stima che su 4.000 comuni fossero virtuosi, sì, sono 200 milioni che possono essere messi da domani mattina sul tappeto. Ecco, lei cosa, cosa gli farebbe fare ai disoccupati? Tra l'altro diciamo anche una cosa, i costi della disoccupazione sono altissimi. Pensiamo a tutti gli incentivi che vanno alle imprese, a tutti i sussidi alla disoccupazione, sussidi al reddito, ai costi sociali, alla, insomma, mancato percorso di studi dei figli disoccupati che magari non possono investire sul loro futuro. Quindi investire in realtà non, quasi non equivale a spendere nel caso della disoccupazione, ci guadagniamo. Quindi è un discorso che politicamente regge, ha un senso, ma anche dal punto di vista economico. Lei però cosa gli farebbe fare ai disoccupati che vuole assumere? Noi siamo un comune sottodotato perché, essendo virtuoso, vuol dire che abbiamo una spesa del personale ridotta e ne abbiamo meno. Quindi siamo un po' in difficoltà nel svolgere mansioni normali. Quindi potremmo andare dal curare il verde a fare a coadiuvare l'assistenza sociale in biblioteca, in municipio. Se ci sono figure professionali, parlo di un geometra, di un ingegnere che momentaneamente non ha nessun reddito, anche giovane magari, può aiutare il mio ufficio tecnico, e con due persone cosa può fare? C'è l'informatica che avanza, raramente nei nostri comuni dobbiamo rivolgerci all'esterno, quindi con spese. Se c'è uno, un informatico che è a casa, viene per questi mesi, aiuta, io risparmio in consulenze. Cioè, c'è un effetto benefico su tutto il settore, sui costi nostri interni e sul costo sociale che è immenso. E inoltre, lo sottolineo perché non è mai evidenziato bene, la gente, cioè se uno viene, perché poi viene dal comune, se è in difficoltà, gli diamo soldi e assistenzialismo. Se gli diamo un aiuto in contropartita di un lavoro, è una cosa benefica sotto tutto il punto di vista. Sicuramente ci guadagna anche la collettività, perché certo, dare sussidi al reddito è giusto, per esempio la cassa integrazione è giusta, sacrosanta, tutto quello che volete, ma dopo che grandi aziende per anni e anni hanno magari beneficiato della cassa integrazione, a un certo punto uno si dice, beh, il sussidio te lo do, però a questo punto almeno decido io che lavoro farti fare, vieni a lavorare per il comune. Un altro sindaco di Berceto aveva proposto una cosa analoga, ma anche per esempio di impiegare per esempio i detenuti per fare lavori sugli Appennini contro le frane, per prevenire le alluvioni, fare lavori sul territorio. Cioè, ognuno in base alla sua situazione, ovviamente ha delle esigenze diverse, ma io credo che questa aprirebbe benissimo una possibilità. Ma non sarebbe da non banalizzare il fatto che ci sono, se tutti i comuni che sono a posto mettono media 50.000 euro, facciamo così tra grandi e piccoli, fa 200 milioni. Vuol dire assumere 70-80 mila persone, insomma, non è mi poco. Pare che non è da sputarci sopra di questi tempi. Senta, ma lei ce l'ha questo avanzo di bilancio? Ma io ce l'ho, il patto di stabilità ci impedisce di spendere, poi noi qui siamo molto oculati, nel senso che abbiamo sempre fatto, ma anche i miei predecessori, una politica molto attenta. Lei pensi che io ho già approvato il bilancio di previsione di quest'anno, penso di essere stato uno dei pochi in Italia, a dicembre. Sì. Io sono in grado di spendere non per dodicesimi, il che vuol dire che anche nei momenti di difficoltà, adesso qui nel Veneto alluvioni, le risposte le posso dare, invece che spendere solo per dodicesimo, che limita. E poi metterò a posto quando qualcuno mi dirà cos'è questa nuova IUC, come si applica, spero che il governo abbia capito che deve darci delle indicazioni, perché poi questa ha una ricaduta sui cittadini, sulle aziende e costi. In questo momento spero che si rendano conto di farlo bene. L'altra questione che sottolineo è che io e i miei collaboratori di maggioranza e di comune un articolo unico, perché non vogliamo che vengano messe le mani dei burocrati centrali, che sono quelli che ci complicano la vita. A proposito di burocrazia. Sì, a proposito di burocrazia, questa regola, lei pensa che possa, cioè ha fiducia che possa essere cambiata questa cosa che vi impedisce di spendere? Ha visto adesso, insomma, oggi giurerà il nuovo governo, il nuovo ministro dell'economia è Padoan, poi c'è un ministro per gli affari regionali che è Maria Carmela Lanzetta, ex sindaco, insomma, contro l'Ndrangheta in Calabria. Non so quali sono poi i ministri che potrebbero interagire su questa questione. Lei ha fiducia intanto? Io devo avere fiducia, perché se non riesce questo governo noi siamo falliti, quindi è interesse di tutti che ce la faccia al di là delle appartenenze politiche. Comunque una scossa alla data, mi sembra, insomma, se non altro qualche volto nuovo. Adesso dovrà scontrarsi sia con l'Europa ma anche con la burocrazia. Guardi, io sono di vecchia data sindaco e anche con il mio lavoro di medico. La burocrazia è una cosa che ci ammazza, tutti lo dicono, ma ogni volta che ci mettono le mani per migliorare, viene complicata, perché l'indicazione viene tramutata in regolamenti attuativi, in circolari che ti rendono impossibile. Ribadisco, sulla nostra proposta di decreto, articolo unico e nessuno lo tocchi, c'è già scritto tutto. Quanti siete a sostenere questo decreto? Ma per il momento sono io, l'ho mandato a tutti i sindaci del Veneto, a tutti i parlamentari. Allarghi anche oltre il Veneto, così c'è più possibilità di raccogliere firme. Non è che posso mettere i miei dipendenti a lavorare per queste iniziative, ma io la mano, cioè, io ringrazio che ci date anche la possibilità di ampliarvi a radio questo. La disponibilità sul nostro sito comunale è pubblicato, chi lo vuol copiare o lo vuol sostenere è disponibile. Santa Lucia di Piave. Questa volta diciamolo bene. Grazie sindaco. Grazie, buona giornata a tutti. Buona giornata, 800 24 0024. Direi che torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno anche a Carlo Gabardini, ciao Carlo. Buongiorno, ben ciao ritrovato. Alessio, grazie. Ministro per lo sviluppo. Nel senso che stai proponendo me come ministro per lo sviluppo? Stagista, opinionista Radio 24, devi sapere tutti i ministri, biografie, l'età, luogo di provenienza. Ce n'è nuovi, ce n'è 16 nuovi al mese. Ministro per gli affari regionali, non sai niente. Giusto? Chi ha vinto Saremo Giovani? Hunt, questa la sai, Rocco Hunt. Esatto. Tra poco andremo a Sanremo anche con Marta Cagnola più avanti per così per alleggerire un po'. Giusto, giustissimo. Ti è piaciuta la canzone che ha vinto? So che eri anche a commentare da qualche parte ieri sera. Ma mi è piaciuto, c'erano delle canzoni che mi piacevano di più, però io di musica non capisco veramente niente. Poi il festival secondo me non lo si giudica tanto, nel senso che è un po' come la messa il festival, quindi se c'è dentro qualche cosa di buono e straordinario uno ne parla, se no uno si puppa un po' quello che passa al convento, diciamo. Ah, tu dici meglio non parlarne nel caso. No, non dico meglio non parlarne, però penso, diciamo, se dovessi dire qualcosa sul festival direi che il festival è lo specchio del paese, visto diciamo come è messo il nostro paese, direi che è uno specchio fedele. L'ho detta bene? L'hai detta bene. L'ho detta pulita? È un po' come il governo Renzi, oggi molti scrivono tante novità ma poche personalità, per esempio. Mettiamola. Beh, no, di personalità ce n'erano tante, diciamo, soprattutto over 90, direi. Over 90 ce n'erano tantissime di ospiti, ma non in gara. Ospiti, esatto. Ma non lo so, ogni tanto c'era qualcuno in gara, ogni tanto non si è capito esattamente. I tuoi 5 minuti, vai. I miei 5 minuti. Allora, mi ha incuriosito molto una notizia scritta, diciamo, su Wired, scritta dallo stesso creatore della notizia, cioè Daniele Virgillito, il quale ha provato un esperimento per vedere, diciamo, quanto fosse permeabile il mondo dell'informazione. Il tutto parte in realtà da uno scozzese che nel 2009 inventa una citazione, la mette su Wikipedia e dei giornali riprendono questa citazione. Quindi Virgillito si dice: voglio provare anch'io a fare questo esperimento. Quando nel 2009 muore Gianni Budget Bozzo, lui aggiunge sulla pagina di Wikipedia di Bozzo, appunto, questa citazione: a un giovane direi abbi i valori come bussola della tua nave e non avere paura di navigare il mondo. Questa citazione, dopo pochissime ore, era su tutti i giornali. No, viene ripresa in realtà solamente da alcuni giornali online. E quindi lui pensa di diciamo di aver fallito. Lui stesso dice: a quel punto pensavo di aver fallito. Però qualche giorno dopo Letizia Moratti, che allora era sindaco di Milano, fa di questa citazione, diciamo, il cardine del suo ricordo ufficiale di Budget Bozzo. E quindi questa notizia inizia a essere ripresa. Lo stesso lui fa nel 2011, quando muore Mario Scaccia, che è un noto bravissimo attore che è mancato appunto nel 2011 a 91 anni. Lui scrive: nel palco della vita siamo tutti figuranti. Questa notizia viene ripresa non solo da giornali, ma addirittura i telegiornali dicono come era solito dire, oppure lo ripeteva proprio spesso. Quindi diciamo ci cascano tutti moltissimo. Ma erano vere queste frasi? Sì. No, che non erano vere. Non erano queste vere. Sono citazioni inventate. Da lui stesso e infilate dentro nel profilo di della persona che era appena morta, sì. Perché questa cosa qui in realtà è anche importante, il momento che sceglie. È un po' cattivello, questo sì, no, lui stesso in realtà chiede anche scusa per questo, dice non è che me la sono presa con coloro, no, che voleva sono morti, mettere in evidenza, esattamente, un po'. Quando muore Mariangela Melato, addirittura lui scrive come citazione: recitare è un bisogno come quello di amare o di andare in bagno. Questa citazione viene ripresa da tutti, da tutto il mondo, da Didi Repubblica, da TG La 7. Se si fa una ricerca su Google adesso escono più o meno 2500 risultati, quindi anche questa cosa qua, diciamo, nega quello che diceva Umberto Eco, che diceva se una notizia c'è tre volte vuol dire che molto probabilmente è vera. Questa c'è 2500 volte e non è vera per niente. Mi sembra interessante questo meccanismo, questo ragionamento. È ovvio che, diciamo, per spezzare una lancia per Wikipedia va anche detto che, perché in realtà Wikipedia è stato provato che ha meno errori dell'Enciclopedia Britannica al suo interno, perché il controllo di tutta la popolazione mondiale fa sì che gli errori diventino molto pochi. Però sulle frasi, sulle citazioni forse è più difficile. Soprattutto, secondo me, lui va a beccare un punto importante, che è il momento, ovvero nel momento della morte, perché nel momento che muore qualcuno, possiamo dirlo, anche se io non sono un giornalista, anzi lo dovrebbe quasi dire un giornalista, quindi adesso tutti si va sulla pagina di Wikipedia per avere informazioni. E quello poi non ci andrò più dopo che hai letto questa notizia. Esatto, ma perché quello è proprio il momento, è uno spazio in realtà di un paio d'ore probabilmente, o di un paio di giorni, prima che i fan di chi è morto, i parenti, chiunque, vada a correggere, quindi a rettificare e a ristabilire perché la verità. Perché adesso quelle frasi non ci sono più. No, non ci sono però più. Però in quelle poche ore evidentemente riescono a fare presa. Beh, è un bel caso questo. E infatti, qua poi mi sono spaventato molto, perché sono andato sul mio profilo Wikipedia, che non so chi abbia fatto, c'era ma qualcuno l'ha fatto. C'era una frase che non era tua e tu hai detto, sono morto. Esattamente. Ho bruciato la battuta. Direi, che dici? Ma veramente? C'è qualcuno che ha aggiunto, la mamma è sempre la mamma, come se fosse una mia citazione, che tra l'altro se fosse mia, diciamo che avrei probabilmente sarei ricchissimo solamente di SIAE, e quindi mi sono detto, boh, forse sono morto. E invece no, a meno che questo studio con noi non sia un imitatore. E chi è che ha scritto questa frase sul tuo profilo? Che ne so, devi io indagare, nessuno Carlo lo sa, nessuno qualcuno lo sa. Che ti vuole, che mi vuole male morto, probabilmente. Ascoltatori a 800 24 00 24. Comunque insisto, questa è una bella storia questa che ci hai portato, perché insomma, su Wikipedia, e l'ha scritta un giornalista di Wired. Esattamente, Daniele Virgillito, che poi è lo stesso che in realtà ha inventato queste frasi e in qualche modo si autodenuncia, denuncia il proprio scherzo che porta avanti da 4 anni dicendo adesso ve lo dico. Ha creato un bel caso, io non la sapevo questa cosa qua. Francesco da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io l'ascolto tutti sabato mattina, però la molla che è scattata stamattina è quella che quando lei ha detto che l'ex ministro dell'ambiente è passato al ministro della giustizia, sì, e che deve studiare per l'ambiente, adesso deve studiare per la giustizia. Mi sa di sì. Ed è l'unica cosa che a me di questo governo onestamente non è andata giù, partendo dal presupposto che non sono per niente di quell'area politica, con tanta gente che addirittura la Di Pietro, Severino, il PM Cantone, Siniscalchi, il Casson stesso del PD, che sono gente che hanno vissuto nel ministero della giustizia. Io parlo perché lavoro in quel settore. Lei cosa fa? Strano tutto questo. Lavoro in questo settore, sono un impiegato della giustizia. Quindi secondo me doveva venire non un tecnico, sì, ma uno che ha vissuto in questo ministero, e sa dove stanno le magagne, i problemi, gli errori e così via. Poi per il resto, sì, a parte il ministro dell'economia, che mi sembra una persona in gamba già per le cose che ha detto quando stava all'Ocse, cioè che insomma bisogna abbassare il cuneo fiscale per far sì che si metta in moto tutta una sorta di cose, e poi che ci stanno molte donne e una bella ventata di gioventù. Grazie Francesco, che dire insomma sul fatto che i ministri dovrebbero essere competenti è una vecchia questione. C'è chi dice che la competenza è una competenza politica, la competenza necessaria, cioè una competenza organizzativa, di idee, di strategie, di visioni, e che quindi non necessariamente il ministro dell'ambiente deve essere uno che conosce quei problemi, o quello della giustizia un magistrato. Però anche il fatto di dover riiniziare, e Orlando con noi l'aveva detto candidamente, me la devo studiare questa materia, perché bisogna poi capirli i problemi oggi giorno, insomma non è che si può partire da zero, invece ogni volta si riparte da zero, questo non è forse il massimo, soprattutto quando si va con la media di un governo all'anno. Flaviano dalla provincia di Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Sì, prego, non la sentiamo. Vabbè, adesso sentiamo un altro ascoltatore allora, perché Flaviano è disturbato. Flaviano, ci sente? Sì, ecco, sì, lo sento. Tocca a lei, siamo noi che la sentiamo male, proviamo. Pronto, mi sente adesso? No, ecco, basta, Flaviano, non ci sente. Donato da Bari. Però prima voglio rilanciare anche la vostra bella notizia della settimana. Mi raccomando, chiamateci. Oltre che per commentare il governo Renzi, anche per raccontarci cosa ha reso più bella la vostra settimana. Non so, nei giorni scorsi abbiamo avuto nascite, matrimoni, annunci di assunzioni, aziende che assumevano, persone che avevano annunciato loro stesse nuove assunzioni, insomma, progetti per l'anno a venire, perché anche oggi si vincono i biglietti per la mostra di Munch a Genova. Tutti i racconti che ci volete comunicare e volete condividere con noi. Donato da Bari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, complimenti innanzitutto a Radio 24. Grazie. Nulla, io ho acceso la radio quando stavate parlando dell'occupazione, quindi la possibilità dei comuni di utilizzare questi buoni, chiaramente i comuni virtuosi. Un'altra idea a costo zero per lo Stato potrebbe essere l'utilizzo giusto e corretto dei famosi permessi della legge 104. Sappiamo tutti benissimo che nel passato sono stati concessi con molta facilità, fortunatamente ora c'è più rigidità. Però se noi pensiamo... Scusi, non è che io conosca proprio tutte le leggi italiane, qual è la legge 104? È una legge che permette ai lavoratori, nel momento in cui c'è un parente in difficoltà con delle invalidità insomma piuttosto importanti, di avere 3 giorni di permesso dal lavoro, sì, che vengono chiaramente sono a carico dello Stato. Ora a lume di naso l'80-90% di questi permessi sono utilizzati semplicemente come 3 giorni di ferie dal lavoro, che sono a carico dello Stato. Se noi consideriamo che ogni 8-9 di questi permessi si potrebbe assumere una persona in Italia che effettivamente si occupi di queste persone, sarebbe un piccolo gesto nei confronti dei disoccupati a costo zero. Va bene, insomma, è un po' farraginoso la sua soluzione. No, però è molto semplice. Cioè, i 3 giorni li paga lo Stato. Sì. Cioè, li moltiplichiamo per le 8-9 persone a cui tolta questa cosa, sono 24 giorni di lavoro per una nuova persona, per un nuovo occupato. Sì, no, è farraginoso nel senso che è un po' frastagliato poi la platea delle persone che usufruiscono di questi permessi. Lavoratore dovrebbe saltare da un'azienda all'altra per coprire tutti i vari buchi. Comunque, grazie, ogni suggerimento è ben accolto. Ci fermiamo per il giornale radio, poi torniamo. Torniamo tra pochissimo, 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Detto che oggi la colonna sonora di Si può fare era molto festivaliera, perché anche Vado al massimo di Vasco Rossi è stata al festival nel 1982 per l'esattezza, in una edizione, pensa Carlo, nella quale vinse Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Anni bellissimi, indimenticabili. E poi c'era anche Felicità di Albano e Romina, che arrivò seconda. Naturalmente Vado al massimo e Vasco Rossi non arrivò da nessuna parte, ma tant'è. Beh, da nessuna parte. Beh, insomma, arrivò, sì, al festival. Tutti i nostri cuori arrivò. Arrivò in tutti i nostri cuori. E anche in quello di Lella Torzani, che ce l'ha segnalata l'ascoltatrice. La vostra musica e il vostro Si può fare è la canzone significativa di oggi, che abbiamo voluto mettere così alla vostra attenzione. Adesso andiamo a recuperare un po' di ascoltatori che abbiamo già in linea da prima. Andiamo con chi vogliamo sentire. Antonella da Roma, buongiorno. E buongiorno a tutti. Buongiorno, prego. Allora, tornando e guardando la lista dei ministri, sì, del nuovo governo Renzi, volevo dire, se interessa, non lo so, è il ministro Orlando, mi pare, il nuovo ministro della giustizia, sì, leggendo i giornali anche, diciamo, si occupava di questo nel partito. Non so se forse dovrà studiare un pochino di meno. Sì, sì, di questa cosa. Della giustizia, perché è stato responsabile della giustizia nel PD. diciamo, forse speriamo che debba studiare un pochino di meno. Era solamente questa sì. piccola. Va bene, va bene, grazie dire. Antonella. Grazie mille, buona giornata. Roberto, sempre da Roma, buongiorno. Senti, no, Pomezia. Da Pomezia, meglio. Sì. Buongiorno, qui da noi abbiamo un sindaco grillino, Fabio Fucci. È oltretutto un carissimo amico. Che Pomezia, mi scusi, Pomezia tra l'altro, a parte come incipit, sì. non è male. Cioè, abbiamo un sindaco grillino, che c'entra? Anche il carissimo amico non è male. Anche direi. Carissimo amico. Quanti abitanti sì, fa Pomezia? Mi scusi, Roberto, non è una città piccolissima, no? No. 60.000, c'è tante aziende godette dei finanziamenti Casa del Mezzogiorno. Quindi possiamo dire che è una delle città più grandi amministrate dal Movimento 5 Stelle? Direi Pomezia. Proprio di sì, anche perché è molto fervente di tante iniziative, tra cui il sindaco ha avviato questa iniziativa, diciamo, non so chi l'ha fatto prima, se il sindaco di Santa Lucia di Piave sì. o se l'amico Fucci. Comunque le posso dire... Quale iniziativa, mi scusi? L'iniziativa di impiegare i cassintegrati sì. in maniera che diano una collaborazione senza oneri per il comune. Aspetti, ma è una proposta che... o una cosa concreta che funziona? Perché noi abbiamo fatto parlare il sindaco di Santa Lucia di Piave, che era una proposta la sua, però. Sì, mi permette? Sì. Allora, io personalmente ho una competenza professionale su diversi argomenti e io l'ho proposto scherzando nella campagna 2011. E lui oggi l'ha resa attuata in questo senso, non distinguendo se sei un cassaintegrato o se sei un cittadino libero, ma lui si fa vale su quelli che desiderano partecipare, collaborare senza compenso economico. Guarda, questa è una bella iniziativa, perché per esempio io sono in pensione, cioè fa lavorare gratis le persone. Sì, però questa è un'altra cosa. Grazie, ma guardi che c'è la soddisfazione personale di rendersi sì. utile. Guardi, resti in linea con noi, perché noi tra pochissimo andremo a Bologna per presentare un progetto importante, proprio per quello di cui sta parlando lei, cioè il regolamento per l'amministrazione condivisa, le nuove regole che vanno da Bologna ma serviranno per tutti i comuni italiani per fare il volontariato alle persone all'interno di finalità pubbliche, quello che diceva lei. Però il sindaco di Santa Lucia di Piave in realtà proponeva di far lavorare i disoccupati, cioè a stipendio, metterli a stipendio, quindi era una cosa diversa. Ma mi scusi, ma il sindaco Fucci non è il sindaco che ha appena sgomberato la scuola che era stata occupata dai lavoratori che in protesta? Guardi, Fucci è la persona che per esempio è preoccupato perché il polo universitario della terza università di Roma, che fu avviata dal senatore Stefano Zappalà. Sì, ma non ha risposto a Gabardini, sì. Roberto, però. Una volta che faccio una domanda dove sembravo anche un giornalista, e io non sono un giornalista. Io nemmeno. No, nel senso che mi sembrava di aver letto che Fucci sì. avesse sgomberato la scuola che era stata occupata dai lavoratori che volevano protestare, e lui la sgomberò. Sì, però, volevamo sapere a caldo, visto che lei è di Pomezia, conosce il sindaco personalmente, magari ce la raccontava. Pronto. Bisogna anche sapere le motivazioni che sono dietro, perché per esempio Fucci dopo una settimana che è entrato in carico è andato a chiudere tutti quanti le bagatelle, le bancarelle abusive giù a Tor Vaianica e gli hanno menato. Va bene, però... Roberto, grazie, no, grazie per essere stato con noi, grazie. Grazie mille, volevo semplicemente un commento sì, a caldo. Questo ascoltatore era di quelli che tu gli fai una domanda, lui risponde cuori e risponde no, picche. Ma poi forse essendo molto amico del sindaco, come ha detto lui stesso, sbilanciare. Esatto, era una notizia. Facciamo anche Marcello, va da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo parlare a proposito dell'occupazione, diciamo, giovanile, o comunque sì? occupazione e basta. Sì? Tenendo presente un fatto strano, che noi vogliamo creare occupazione per i giovani, però sembra che il lavoro non c'è. A questo punto gli interventi dello Stato, almeno quelli finora messi in cantiere, non sembra che possano dare grandi risultati. Allora io pensavo, solo ovviamente tenendo presente quello che vuole fare questo sindaco di cui avete parlato voi, sì? a uno strumento che alcune regioni avevano messo in essere, io ero un dirigente della regione Lazio, avevano messo in essere una quindicina d'anni fa. Quale strumento? Chiamavano, rifacendosi a un'iniziativa dello Stato, che erano chiamati cantieri scuola e lavoro. Vale a dire, Io parto da questo presupposto: non esiste, non è, esistendo poche possibilità per far lavorare a livello di imprese, si potrebbe, tenendo presente soprattutto quello che è successo. Marcello, si potrebbe cosa? Stringa, si potrebbe? Qual è la proposta? Si potrebbe l'applicazione di questo strumento. Come funziona? Dei cantieri, scuole e lavoro. Come funziona? Andrebbe benissimo adesso, in cui c'è da mettere in sicurezza il territorio. Va bene. Ci spieghi questo strumento? Come funziona, però? Non abbiamo capito, Marcello. Lei deve fare il politico, o forse fa il politico? No, io non sono nessun politico a 70 anni, quindi non faccio nessun politico. Guardi, tutti gli altri settantenni sono in Parlamento, quindi. Come funziona? Manca solo lei. Il meccanismo era questo. In sostanza, queste regioni, le dico per esempio la Liguria, la Toscana, il Lazio, la Sardegna e qualche altra. Noi regioni davamo un 50% ai comuni che attivavano questi cantieri scuole e lavoro, per esempio una figura molto. Marcello, ce la racconta un'altra volta perché non abbiamo più tempo. Traffico. Ci mandi una mail. Appuntamento oggi a Bologna per la presentazione del regolamento dell'amministrazione condivisa, nato dal progetto La città come beni comuni. Un regolamento per fare, inserire il lavoro dei volontari all'interno di finalità pubbliche, perché anche solo questa semplice cosa in Italia è molto complicata. Si chiama sussidiarietà in termini generali, ma si tratta di esperienze molto molto concrete che oggi appunto vengono presentate a Bologna. E io saluto prima di tutto Cristian Iaione, buongiorno. Buongiorno. Direttore di Labsus, l'associazione che laboratorio per la sussidiarietà, che ha dato vita insieme ad altre anche associazioni, comitati e al Comune di Bologna a questa iniziativa che oggi viene presentata con proprio il patrocinio del Comune di Bologna, ma non solo. Saluto già che sono anche il sindaco di Bologna, Virginio Merola. Chi abbiamo? Pronto? Abbiamo Cristiano Zecchi allora? Abbiamo il portavoce del sindaco, chi abbiamo? Pronto. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo il portavoce del sindaco allora, non il sindaco, Cristiano Zecchi. No, sono il sindaco, buongiorno. Ah, ecco, allora abbiamo fatto un po' di confusione in regia, evidentemente. Allora, è chiaro che c'è il sindaco, no, perché siamo a Bologna. Però toglietemi prima di tutto una curiosità. Il ministro Delrio, che ha seguito da buon emiliano questa vicenda, oggi che ha altro da fare probabilmente non c'è, doveva esserci. No, evidentemente non c'è, è al giuramento. Vabbè, aveva patrocinato come ministro per gli affari regionali questa iniziativa, speriamo che da sottosegretario alla presidenza del Consiglio vi aiuti a sostenere e a portare avanti questa iniziativa, che io vorrei che fosse proprio Iaione, il direttore di Labsus, a spiegarci un po' di cosa stiamo parlando. Allora, stiamo parlando di una nuova, diciamo, forma di alleanza tra i comuni, le istituzioni pubbliche e i cittadini. È un nuovo modo di stare nella società, di amministrare i problemi della collettività, in cui non c'è più un soggetto unico, lo Stato, che ha un monopolio della cura dell'interesse collettivo, ma c'è una condivisione, una responsabilità condivisa tra i poteri pubblici, che non si ritraggono, e i cittadini, che si fanno avanti e immettono le loro energie nella soluzione dei problemi. problemi di interesse collettivo, di interesse generale, come dice la Costituzione, l'articolo 118. Il laboratorio per la sussidiarietà nasce proprio con questo scopo, quello di disseminare e divulgare questo principio costituzionale e trasformarlo in un nuovo metodo amministrativo, elaborare tecnologie istituzionali che consentano alle amministrazioni e ai cittadini di collaborare, cooperare in vista della tutela e della cura dei beni comuni. Ecco, possiamo fare anche degli esempi concreti, non lo so, sì, perché tutto questo percorso nasce da progetti, sperimentazioni che sono state fatte a Bologna e non solo, ma proprio di casi concreti. Facciamo due o tre esempi al volo. Nel caso di Bologna, dove il progetto nasce appunto dalla collaborazione tra il Laboratorio per la Sussidiarietà e il Comune, con il supporto della Fondazione del Monte, i casi sono stati sostanzialmente tre: la cura condivisa di un parco pubblico, la cura dei portici, che sono un simbolo della città di Bologna, e un immobile che è del comune di Bologna, che verrà di una piazza pubblica che è stata recuperata e riqualificata insieme con i cittadini. Adesso entreremo anche nel merito, per esempio, della cura dei portici di Bologna, perché abbiamo una persona che se ne è occupata, lo salutiamo, intanto l'avvocato Duccio Cerfogli. Buongiorno. E però io al sindaco di Bologna, Virginio Merola, vorrei chiedere, proprio dal punto di vista del comune, dell'amministrazione, insomma, cos'è che non andava prima e che cosa ci guadagna adesso invece il comune, quindi anche la collettività, con questo regolamento per l'amministrazione condivisa? Cambia completamente il modo di vedere l'amministrazione, non c'è più un rapporto alto-basso, il cittadino chiede, il comune risponde con tutte le difficoltà burocratiche, ma si introducono delle regole che sono pensate non per vietare o autorizzare, ma per sostenere i cittadini che si mettono insieme per gestire uno spazio pubblico, un parco, un servizio. Quindi è la prima applicazione vera della sussidiarietà prevista dalla nostra Costituzione, che dice che i comuni, lo Stato, devono sostenere i cittadini che fanno azioni di interesse generale per la collettività. Chi mi risponde però a questa domanda? Perché insomma, sembra quasi una cosa banale, no? Far consentire a persone che lo vogliono fare volontariamente di potersi prendere cura di un parco, però evidentemente in Italia anche solo questa semplice cosa aveva delle difficoltà, degli ostacoli concreti. Merola, lei che è sindaco, cioè, perché prima, in assenza di questo regolamento, per spiegarlo agli ascoltatori, era più complicato, se non addirittura impossibile? Noi per esempio abbiamo raccontato una storia sul lago di Como, dei pensionati che volevano prendersi cura del lago e fare la pulizia del lago, ma l'assessore gli aveva risposto: non si può perché manca l'assicurazione, è un lavoro rischioso, ci sono delle regole, eccetera, e quindi si era arenato tutto lì. Quindi erano difficoltà di questo tipo, burocratiche, di diverse competenze. Se per colorare una panchina bisogna coinvolgere 5 settori dell'amministrazione comunale più la sovrintendenza, se siamo nel centro storico, è chiaro che tutto questo scoraggia i cittadini. Quindi abbiamo immaginato un nuovo regolamento che per la prima volta non mette paletti, ma sostiene queste iniziative, per cui i cittadini che si organizzano per fare le cose hanno un unico riferimento nel comune che li sosterrà e gli darà. È tutto, insomma, diventa più semplice. Fatto. Diventa tutto più semplice. Allora, con l'avvocato Duccio Cerfogli dell'Associazione Avvocati in Cantiere, già capite che, insomma, qual è lo scopo dell'associazione, ci spiega come è nato la vostra iniziativa e poi quello che siete riusciti concretamente a fare grazie a questa innovazione. Gli avvocati in cantiere nascono come associazione di volontari proprio, che è stata motivata dal fatto di portare un contributo attivo nella città in cui abitano e in cui vivono. Poiché purtroppo Bologna adesso è stata interessata in maniera sproporzionata dal fenomeno dei graffiti, che vanno a deturpare l'arredo urbano, e unitamente al presidente di un quartiere a cui ci siamo rivolti, abbiamo iniziato offrendo la nostra disponibilità per cercare di contribuire per risolvere questi problemi. Cioè, prendendo il pennello in mano sostanzialmente. Esattamente. Che però non è così semplice come sembra. Esatto. Perché abbiamo scoperto ad esempio che non si può prendere della vernice e ricoprire dei graffiti e tutto è risolto. La prima cosa da fare è rimuovere i graffiti. Beh, insomma, prima bisogna rimuoverli, dopo diciamo, c'è della tecnica anche in questo, anche in questo, anche in questo tipo di interventi. Vabbè, intanto complimenti, perché quando ci troviamo di fronte a cittadini che si rimboccano le maniche per fare. Si può decidere anche di dipingerci sopra, però, di migliorare i graffiti se sono brutti, di farci dei disegni più belli, no? Per esempio, davanti a casa mia ci sono dei murales fatti proprio da degli artisti. Ho notato che i graffiti li ignorano, cioè i graffitari hanno un loro piccolo codice deontologico, per cui i disegni belli non li ricoprono, solo le pareti bianche. Vabbè, il sindaco Merola non sarà d'accordo con me su questo, non importa. Iaione, vorrei tornare però con lei per lanciare un messaggio all'Italia, al mondo, sul significato, il valore di questo regolamento e un invito agli altri comuni, poi magari lo farà Merola, ad aderire a questa iniziativa. Iaione. Sì, no, quanto è stato detto dimostra quanto sia necessario porre mano a delle regole nuove, non a nuove regole, ennesime regole che vanno a disciplinare l'attività dei cittadini. Ci vogliono regole di nuovo conio, regole di nuova impostazione, proprio perché l'ordinamento non è concepito per consentire alle amministrazioni di collaborare, ma solo di amministrare per conto e non insieme ai cittadini. Quindi assolutamente, se vogliamo fare in modo che questo diventi un metodo ordinario di amministrazione, dobbiamo per forza di cose aiutare le istituzioni, i cittadini, ad elaborare delle regole per poter dimostrare che questa cosa può funzionare in via ordinaria e qui ci vuole tecnica, è chiaro, è emerso, ci vuole competenza. Questa cosa serve anche ai cittadini per sviluppare nuove competenze e serviranno anche nuove professionalità. Per questo motivo noi stiamo per esempio con la LUIS Vito Carli investendo sulla formazione dei professionisti dell'amministrazione condivisa per fare in modo che ci siano, ecco, vedi, un nuovo settore anche professionale. Sindaco Mero, un invito agli altri comuni, un appello a chi sostituirà per esempio Del Rio, insomma, a sostenere questa iniziativa se crede e insomma ad aderire, perché bisogna aderire a questa vostra idea che lanciate voi, il rilancio della sussidiarietà che parte da Bologna. Ma è molto semplice, perché con questo regolamento c'è la possibilità appunto di fare dei patti di collaborazione con i cittadini per lavorare insieme per la bellezza, la pulizia della città e per il bene comune. I sindaci sono i primi a volere semplificare le cose e ci auguriamo che anche dal governo ci siano delle risposte forti in questo senso. Noi oggi consegneremo questo regolamento ad altri due sindaci della nostra area metropolitana e pensiamo che possa un primo passo, va bene, sì. grazie a Bologna tutta, dal sindaco all'Absus all'avvocato Cerfogli. Bologna è un laboratorio, ancora una volta, vedremo, magari qualche altro comune ci sta sentendo, qualche assessore, qualche sindaco, qualche associazione di volontariato dice beh, ma noi queste cose già le facciamo, può darsi, non è detto che questa sia una rivoluzione, però si presenta come tale ed è comunque un messaggio per rilanciare la sussidiarietà con strumenti concreti. Vedremo se farà presa. Carlo. Eccoti qua. Allora. Avevo letto un messaggio che diceva: buongiorno, sindaco di Chieti, Umberto Di Primio avrebbe piacere di intervenire, si può fare. Allora, adesso mi sa che lo chiamiamo. Stavo andando a ricercare l'SMS per non citarlo scorrettamente. Adesso lo chiamiamo, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, rientrati. Tra poco andremo anche a Sanremo, adesso con questa canzone abbiamo fatto un excursus non sanremese, però oggi il leitmotiv musicale deve essere Sanremo. Anche perché stiamo traghettando il paese fuori da Sanremo per iniziare. Anche perché posso parlare d'altro. Che sì. Ovviamente non c'entra niente Sanremo, ma deve essere stata una settimana orrenda, perché al contrario di tutti gli altri sabati non ci sono persone che chiamano per dirci che cosa ha reso bella la loro settimana, quindi evidentemente la settimana è stata causa orrenda Sanremo, per tutti. O no, causa no, governo Renzi. No, no, io non ho detto, non è sicuramente colpa di Sanremo, però diciamo forse sì, siamo un po' bloccati in questo momento. Adesso, siccome abbiamo parlato un po' di far lavorare i disoccupati, un po' di regolamenti per l'amministrazione condivisa, ma lì parlavamo di volontariato, ci ha chiamato il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che vuole intervenire. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Grazie, io cerco di fare sintesi tra i due interventi dei due sì? sindaci. Come intervenire sui territori e come recuperare il 28% in meno degli investimenti che negli ultimi 5 anni colpisce i lavori fondamentalmente degli enti locali, quindi dei comuni. Sì. Lo accennava il sindaco Vito del Veneto prima, ascoltato in macchina. Santa Lucia di Piave, sì. Ah, bene, sì, Suschi. Molto bene. Ma intanto col patto di stabilità, lo accennava lui, come fare? Noi abbiamo proposto al governo Renzi, sperando nella sensibilità sua e di Del Rio, soprattutto che è stato sì. il presidente dell'ANCI, ma basta consentire ai comuni, pur nell'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, di poter investire le somme che sono in avanzo sul proprio bilancio. Faccio un esempio banalissimo ma spero comprensibile. Se io chiudo il mio bilancio con 100.000 euro di avanzo, quella somma io oggi non posso impegnarla perché andrei a violare il patto di stabilità. E dove va quella somma? Resta lì, rimane sul bilancio e va sulla annualità successiva come residuo attivo. Cosa vabbè, quindi lo adopera l'anno successivo? Sì, certamente, però io a volte ho emergenze ed esigenze che vanno al di là della programmazione. Io ogni anno devo fare una programmazione che con i criteri del patto di stabilità mi dice posso spendere un X% per investimenti. Gli investimenti sono economia. Se io faccio gare di appalto e faccio lavori sulla mia città, così come tutti gli sì. italiani, facciamo innanzitutto manutenzione del territorio. Un altro esempio, certo. un euro investito sulla tutela del territorio, dissesto idrogeologico, regimentazione delle acque e così via discorrendo, è paragonabile invece, anzi, è il risultato migliore dei 10 euro che noi invece spendiamo per fare gli interventi dopo. Certo, però diciamo anche una cosa a questo punto, è sì. giusto dirlo, perché questa regola viene dal passato, ma ha anche consentito all'Italia di tenere un po' sotto controllo i conti, no? Io sono un po', le dico perché non sono sì. totalmente d'accordo su questo. Sicuramente i conti delle pubbliche amministrazioni tutte andavano regolamentate, però le do soltanto un dato che sì. quindi non è di parte, cioè non è dei comuni. Sulla spesa pubblica il sistema degli enti locali, dei comuni, pesa per il 2,5%. Allora, se così è, mi sembra che i tagli, piuttosto che la limitazione degli investimenti, sia fondamentale. Fermo il rapporto tra PIL e indebitamento al 3%, che è quello che ci richiede l'Europa per il patto di stabilità, quello su cui noi chiediamo di intervenire è il patto di stabilità interno, certo, certo. Cioè le regole che noi ci diamo per rispettare il patto di stabilità. Senta, adesso c'è un governo nuovo che sta arrivando, interlocutori nuovi, vediamo se qualcosa si sbloccherà. Carlo Gabardini, volevi intervenire? Sì, no, siccome mi sembra molto bello che sì. il sindaco senta la trasmissione, si può fare e vuole decide di intervenire, e noi ovviamente lo chiamiamo molto volentieri. Allora, anche per giustizia, diciamo, le leggo un messaggio che è appena arrivato, che dice: sono un cittadino di Chieti, arrabbiato, in realtà diciamo usa un'altra espressione che però trasformo sì. in arrabbiato, con il sindaco Di Primio per la Tares mostruosa. Ci spieghi questo, sindaco? Sì, è vero. Mi scusi, eh? No, è verissimo. Anzi, i romi hanno fatto anche un simpatico manifesto con una pistola che sparava ai cittadini. Ah. Però poi sono anche un sindaco che c'è il 55% di gradimento, quindi sicuramente sono arrabbiati, ma c'è anche la ma forse intendevano dire pistola semplicemente, no? No, forse no, spero di no almeno. E questa Tares, questa Tares però ha detto qualcos'altro. Sì. meglio la pistola. Ci spieghi rapidamente la Tares, che mi sembra la corretto Tares nei confronti dell'ascoltatore. E l'altro punto che io avrei voluto offrire come termine di discussione I comuni devono essere liberi di poter imporre le proprie tasse e devono e non devono fare i gabellieri dello Stato. La TARES è stata decisa in termini di aliquote e di categorie da assoggettare a tassazione da parte di un decreto del governo. Beh no, voi però potevate decidere quanto alta fa. Assolutamente no. Ah. Io ho applicato le tariffe, le aliquote minime, eppure la proiezione è questa. Le dico solo, le faccio un esempio. Un ortofrutta, quindi parliamo di un negozietto che prima pagava 1.800 euro sì. di tasso, è arrivato a pagare anche 5.000 euro di TARES. Però lei ci sta dicendo che non è una sua scelta, perché lei ha applicato le... Io ho applicato le tariffe alle aliquote minime, ma il calcolo che viene fatto è questo. Qual è la differenza? Però gli insulti se li becca lei, questo è l'iter, lo sappiamo. Va bene, sindaco, grazie. Io direi che ci possiamo fermare qua, anche perché grazie al sindaco di Chieti per essere intervenuto grazie. Spontaneamente. Il dibattito è aperto, come si diceva nei film di Nanni Moretti. La provocazione, ma anche la proposta del sindaco Sumski di Santa Lucia di Piave è arrivata, evidentemente. Insomma, sforare questo patto di stabilità interno, fare lavorare per esempio i disoccupati, questo è un dibattito aperto. Vedremo se il nuovo governo sarà più sensibile o no a questa questione, che è legata a tutta una serie di parametri complicatissimi. Adesso però vi vogliamo parlare di un progetto che viene dalla Liguria. Sta prendendo piede sempre di più e un po' in tutta Italia l'idea di riciclare. Ormai si ricicla tutto, si ricicla, siamo alla frutta, ma qui siamo all'olio. Anche i politici, volevi dire, eh? Anche i politici, lì. Ce ne sono 9 del governo Letta, del governo Renzi, quindi... No, qua si ricicla l'olio. L'olio che può servire a tante cose. Ne parliamo con Anna Maria Cardinale, ricercatrice del Dipartimento di Chimica Industriale. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un progetto ligure che riguarda anche le scuole della regione, per insegnare ai bambini che l'olio usato in casa, l'olio per le fritture, tutto l'olio in generale si può, si deve recuperare, e anzi è stato recuperato con tanto di tanichette portate a scuola, è così? Sì, è così. Allora, questo progetto è nato, e questo ci fa molto piacere, mettendo insieme quello che è l'interesse del pubblico, delle persone che vivono in questo paese, che è quello di non buttare più l'olio alimentare negli scarichi come si fa abitualmente, perché penso che tutti sappiano che quando in casa friggiamo oppure apriamo una scatoletta di tonno sott'olio, abbiamo quest'olio che ci gira per casa, e cosa ne facciamo? Si butta. Il privato cittadino può buttarlo proprio a norma di legge nel lavandino. Allora, quest'olio non deve essere più un rifiuto, non è un rifiuto che inquina, perché pensate solo a quello che può fare un velo d'olio su un lago, su un fiume. Certo, poco tutto. Olio può macchiare superfici certo. molto grandi di acqua. Voi dite, anziché farne un rifiuto, usiamolo come una risorsa, perché tale è. Lei che è una ricercatrice proprio di chimica e chimica industriale, cosa ci si può fare con l'olio riciclato? Con l'olio riciclato possiamo fare, sfruttando un procedimento chimico estremamente semplice, sì. quindi semplice e anche poco dispendioso, facciamo il biodiesel, un biocarburante. Il biodiesel, fra l'altro, si può trasformare l'olio fritto in biodiesel con una resa altissima, praticamente direi del 100%. Cioè, preso un litro di olio riciclato si può fare un litro di biodiesel? Certamente, un litro di biodiesel, ma non solo. Il sottoprodotto che otteniamo è glicerina, e quindi otteniamo un altro prodotto importantissimo per l'industria farmaceutica, per l'industria cosmetica. Cioè, non soltanto ci fate il biodiesel, ma ne ricavate anche della glicerina. Anche della glicerina. Tutto questo da un litro... da un chilo d'olio che abbiamo usato per friggere dei panzerotti, giusto? Certamente. Allora, pensi che io qui davanti i dati del CONOE, del Consorzio per il Recupero dell'Olio, sì. si stima, e questo è quello che si stima, perché poi non si hanno i dati proprio così accurati, che ogni anno in Italia si producono 160 milioni di chili di olio solo dai privati, perché come tanti sapranno la ristorazione e il catering deve invece smaltire l'olio di frittura in maniera più sì attraverso una via già prestabilita, ma solo i privati buttano via circa 160 milioni. Senta, mi tolga una curiosità però, perché abbiamo sentito parlare di questa possibilità di farne biodiesel, dell'olio riutilizzato, ma tecnicamente poi chi lo fa? Esistono già delle raffinerie, per esempio il progetto che avete attivato voi che riguarda le scuole, voi siete già in grado di produrre biodiesel? Sì, sì, noi produciamo il biodiesel attraverso uno dei partner del progetto che è la DP Lubrificanti, è una ditta che ad Aprilia, già prima che partisse il progetto, produceva e continua a produrre il biodiesel dall'olio vegetale alimentare. Allora, la cosa che ci piace di questo progetto è che siamo riusciti una volta tanto a mettere insieme quello che è l'interesse della collettività, non inquinare, e quello che è l'interesse di un privato che per lavoro prende l'olio vegetale esausto e lo trasforma in biodiesel. Quindi diciamo siamo riusciti a far combaciare l'interesse pubblico e privato in, diciamo, con una, quelle che si chiamano le buone pratiche. Ma scusi, ma come funziona? Io ho il mio litro d'olio, consegno, mi arriva la tanichetta, consegno la tanichetta e poi mi arriva un litro di biodiesel che io metto dentro nella mia macchina? No. Ah, ecco. Intanto perché il biodiesel si può usare nei motori delle macchine, degli orologi, sì, mescolato al diesel, a meno che non si abbia proprio un motore strutturato per perfetto il diesel. E quindi mi spieghi come funziona, nel senso che io uso il mio chilo d'olio, anzi uso lo stesso dal 2005 come mi ha insegnato mia mamma, ma probabilmente questo, ma ne parliamo un'altra volta. Sì. Comunque lo consegno e a me viene qualcosa indietro? La campana, la campana di raccolta, poi il raccoglitore svuota la campana e lo porta allo stabilimento dove viene fatto il biodiesel. E certo, a noi non torna il biodiesel da mettere nel motore. Cioè, chi fa lo smaltimento poi vende il biodiesel. Quindi non c'è l'incentivo per chi smaltisce l'olio. Ecco, questa è la domanda interessata, Riccardo. Però diciamo che noi tendenzialmente ci si sta spingendo verso la raccolta differenziata. Sì. No, ma questo è a prescindere, quindi no, ma siccome dell'olio. Stava dicendo, abbiamo unito le esigenze del privato, volevo capire se c'era un incentivo per cui io, diciamo, invece che rovesciare l'olio dentro nel lavandino, decida invece di chiamare voi con la tanichetta. Poi è ovvio, se per legge io non posso buttarlo nel lavandino, non lo farò. Per esempio, noi privati per legge possiamo ancora buttarlo. Appunto, è questo che dico, ed è più comodo piuttosto che chiamare la tanichetta. Sa qual è l'esempio a Caltanissetta, avevamo raccontato di un progetto per il quale l'olio riutilizzato finiva in biodiesel ma per alimentare lo scuolabus, e quello era un progetto, diciamo, l'incentivo per le famiglie, collettività era questo. Quello vabbè, insomma, poi l'importante è riciclarlo e riutilizzarlo. E tenga presente, sì, che se noi proviamo a guardare le cose su scala un po' più, sì, vasta, e è chiaro che non possiamo pensare di finire sotterrati dai nostri rifiuti noi e le generazioni future. Io penso che questi potrebbero essere anche nuovi posti di lavoro, cioè in futuro può essere una grossa, certo, opportunità di lavoro per tutti. Chiudere il ciclo. Lo auspichiamo e speriamo anche che il neo ministro dell'ambiente Gianluca Galletti faccia suo. Non questo. Non sapevo ancora il nome. Beh, no, insomma, la nomina di ieri giureranno oggi, vediamo. Ecco. Sono tutti vergini nomi, direi. Grazie comunque. Grazie mille. Grazie Anna Maria Cardinale, ricercatrice di chimica industriale dell'Università di Genova. E questo era il progetto. Abbiamo un po' di ascoltatori in linea, prima però facciamo una pausa per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Sono già fuori tema, ma volevo solo segnalare che l'invenzione dell'acqua calda, quella di Bologna, gli almeno 3.000 piccoli comuni, sì, di montagna da sempre fanno l'autogestione, soprattutto gli eletti, i consiglieri, se si rompe un acquedotto, se si rompe qualcosa, se devono chiamare l'idraulico, sì, non avrebbero i soldi. Quindi questa vabbè, è però non la metta giù così, non, Antonio, non la metta giù così, perché così è. Sì, la metto giù così. No, vabbè, tu che chi si arrangia da solo esiste, è sempre esistito, va bene. Non, Sì, no, ma guardi, sono due cose diverse. Un conto è arrangiarsi da soli quando non ci sono le risorse e riparare la caldaia. Un conto è... è mettere a sistema il fatto di poter avere dei volontari che collaborino con il comune. Nel senso che in un comune tipo a Milano non è che se si rompe un rubinetto uno dice ragazzi, uno si affaccia da Palazzo Marino e dice ragazzi, c'è mica un idraulico che viene su a fare una riparazione? Diventa più difficile. Hai capito, Antonio? C'è un salto di qualità. Certo che la sussidiarietà è una cosa vecchia come il mondo. Questo sì, insomma. Va bene, grazie. Luca, grazie. Da Milano, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Volevo raccontarvi cosa ha reso speciale la mia settimana. Io ho recentemente aperto un negozio di biciclette, sono un ex dirigente di una multinazionale informatica, ho lasciato il lavoro, ho aperto un negozio di biciclette a Milano in Via Cenisio a ottobre. Ha fiutato l'aria che tira, perché adesso la bicicletta va bene. Tira. Speriamo, nonostante il tempo. Mi sono inventato un corso che si chiama Pedalare in sicurezza in città, che è un corso gratuito per tutti gli utenti del mio negozio che hanno interesse a capire prima di tutto come fare un check-up della bicicletta prima di partire. E sei riuscito soprattutto a convincere Frankie High Energy a portare la canzone simbolo del tuo negozio a Sanremo, giusto? Che fa Pedala. Sanremo non l'ho visto. Vabbè, il suo ritornello è Pedala. Scusa, sì, vai avanti. Allora lo userò. Ti chiedo scusa che ti ho interrotto. Per la mia, per il mio negozio. Quindi dicevo, prima di tutto check-up come partire, secondo come comportarsi in strada e terzo come legare la bicicletta per non farsi fregare la bici. Va bene, complimenti. La edizione ha avuto un grande successo perché ha avuto oltre 30 iscritti e se ne è accorto l'assessore di Milano Pierfrancesco Maran che mi ha convocato per giovedì prossimo in comune per valutare la possibilità di estendere il corso a tutti gli utenti. Vedi, anche questa è una specie di sussidiarietà, se vogliamo. Ma bravo. Soprattutto il bello è che è una notizia che ha reso bella la tua settimana, ma che potrebbe rendere bello invece tutto il nostro anno, perlomeno a Milano. Quindi siamo molto contenti. Speriamo. Molto contenti, grazie. Per partecipare, il corso è gratuito, ovviamente, e potete iscriversi su Facebook cercando Pedalare in sicurezza in città. Pedalare in sicurezza in città. Va bene, grazie. Grazie mille. Grazie voi, Luca. Ciao Luca. Ciao. Dina da Firenze. Pronto? Pronto? Pronto. No, io volevo soltanto segnalare che sono vari anni che a Firenze esiste l'associazione Angeli del Bello che volontariamente si recano, non so con che frequenza, credo settimanalmente, a pulire i vari giardini oppure a cancellare le scritte sui muri. E questo, insomma, non so se sono lavoratori in casa integrazione o altre cose, però sono volontari, sicuramente ci sono dei volontari, ecco, sì, all'inizio sono tutti volontari, sono che volontari. Ci sta dicendo Dina, noi l'avevamo detto che di casi di volontariato ne è pieno a fini pubblici sono piene le città italiane, quindi è giusto segnalare, ha fatto bene anche lei, gli Angeli del Bello a Firenze. D'altra parte quello che si cerca di fare a Bologna è come dire sistematizzare questa cosa e dare strumenti anche a associazioni magari più piccole, nuove o che non hanno scritto accordi col comune per poter lavorare, perché uno di per sé non può andare in un parco e tagliare un albero perché l'albero è del comune e questa cosa non si può fare, ci vuole un accordo, una convenzione. Ecco che il regolamento di cui abbiamo parlato a Bologna interviene proprio su questo. Adesso però abbiamo evocato, io direi di sentire un pezzettino di Frankie High Energy, non tanto perché musicalmente è la canzone che ci piace di più, ma perché forse è quella più si può fare che e abbiamo visto per ora. È legata alla notizia migliore che abbiamo avuto di questa settimana, quindi siamo molto contenti e salutiamo Frankie High Energy. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone, come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una coppa ripara, una ferita si cura. Non avere paura, che se no ti deconcentri. Devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento. Due le forze in gioco, un solo movimento. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Sei libero il pignone, lo scegli. Insomma, questa è Pedala di Frankie Energy. Bella, mi sta piacendo. Collegata da Sanremo c'è la nostra Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno a tutti, c'è un po' di traffico, perché qua la città comincia un pochino a muoversi, o meglio i sanremesi si sono già mossi, invece il popolo del festival si sta cominciando piano, a svegliare. Piano piano, piano, tu sei la prima che ti abbiamo fatto svegliare, no? Ho visto già c'erano dei collegamenti. Anche sulle televisioni. È finita tardissimo ieri, quindi è prestissimo, sempre, direi, in questo momento. È finita a che ora tardi, è finita, sì, Marta? Tardi. A che ora? Ma è finita dopo l'una, però come sai poi ai giornalisti tocca cominciare a lavorare. A quel punto e lì poi c'è certo. Il dopo festival sì. Anche su web. Certo, cioè, dopo festival sul web, mamma mia, innovazione della rete, queste sono innovazioni belle e meno belle, cioè, devo dire che io che mi occupo tanto sì. Di social e di televisione ho visto una grande aggressività, questo festival di Sanremo, io ho la mia teoria, non era sbagliato il festival di Sanremo, visto il momento storico sì. Forse bisognava fare una moratoria per qualche settimana, non era il momento. Bisognava farlo, dici. In effetti è caduto un po' compresso tra la crisi di governo, insomma, è un po' questo, no, che dici Marta, vabbè, ma questo insomma, diciamo non... che la... Sì, poi la realtà fa sempre irruzione a sì. Sanremo ed è giusto così, anche perché sì. Più che una gara di canzoni, se lo guardiamo così nella sua storia, è un trattato di sociologia. Questa è la parte, a me personalmente è la parte che più mi piace, però c'è un dibattito, le canzoni devono essere proprio il contrario, l'evasione, come dire, l'intrattenimento, ma anche d'evasione, oppure devono interessarsi della società, eccetera, eccetera. Ieri Sanremo Giovani ha vinto uno che ha fatto una scelta di campo ben precisa, no? Ma guarda, devo dirti che ultimamente si usa spesso questa espressione, i rapper sono i nuovi cantautori, è una frase che si dice spesso. Effettivamente sono quelli che parlano di più della realtà e hanno il vantaggio di farlo con un linguaggio immediatamente comprensibile ai ragazzi. Sì. Quindi cosa è successo? Che questo ragazzo Rocco Hunt, all'anagrafe Rocco Pagliarulo, e io trovo delizioso questo nome d'arte abbinato al nome vero, ha 19 anni, quindi era l'unico davvero giovane dei giovani, perché quest'anno io non sono contraria, perché penso che in Italia insomma, siamo giovani sempre, quindi va benissimo che i giovani di Sanremo abbiano anche 35 anni. Ecco, l'unico dei giovani che insomma, ha vinto con una canzone che parla della sua terra, in particolare del problema della terra dei fuochi, e trovo che sia insomma, una buona notizia. Ecco, ma una il problema poi è queste... Ecco, sì, vai avanti. No, dicevo, una buona notizia per ricollegarmi al fatto che insomma c'erano questi giovani di 35 anni. Sì. Tutti i premi della critica li ha presi Zibba, che oltre ad essere un amico di Radio 24, perché l'abbiamo intervistato spesso, aveva vinto tutto quello che si poteva vincere, ma non era ancora noto al grande pubblico. Quindi, insomma, senti Marta, però puoi anche dirlo, se non ti è piaciuta la canzone di Rocco Hunt, perché poi il problema è queste canzoni che parlano del sociale, poi sono belle, restano nelle orecchie, oppure fanno effetto, ma poi passano. Ma non so quanto poi il fenomeno Rocco Hunt possa andare al di là della regione e della generazione, diciamo, perché comunque dobbiamo ancora capire se questo genere musicale, un certo tipo di rap, è destinato a rimanere oppure se è destinato a essere un fenomeno del momento. Ghigliottina, dobbiamo tagliarti, dobbiamo chiudere più che altro. Grazie Marta Cagnola, poi più avanti nel corso della giornata la risentiremo, e poi la risentiamo anche domani, va, domani così. Certo. Parleremo del vero vincitore. Adesso chiudiamo, salutiamo, ringraziamo Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, Giorgio De Luca, Camilla, prima o poi imparerò anche il cognome di Camilla, scusami, Peter Bescapè in regia. Salutiamo anche chi ci ascolta in podcast. Assolutamente. Ciao da Carlo Gabardini e da Alessio Maurizio, a domani, ciao.